Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio, ad un nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata al budget delle famiglie, alla gestione del denaro familiare. Oggi a Salva Danaio torniamo a parlare dell'acquisto della casa, in qualche maniera trattato anche ieri. Uno degli investimenti più importanti che si possa compiere nell'arco della propria vita e che proprio per questo motivo crea sicuramente gioie ed aspettative positive, ma anche preoccupazioni, grattacapi, interrogativi, insomma uno stato emotivo del tutto particolare sotto molti punti di vista. Oggi però non ci concentreremo sul momento del rogito, che è l'atto formale della compravendita, o sul mutuo già affrontato ieri, ma su tutte quelle fasi precedenti l'acquisto vero e proprio. La ricerca della casa dei nostri sogni oppure del compratore giusto per l'immobile, se vogliamo mettere in vendita una casa, un immobile appunto. E qui entra in gioco il protagonista della puntata di oggi, l'agenzia immobiliare, in particolar modo l'agente, il mediatore. Certo, si può anche decidere di intraprendere la strada dell'accordo tra privati, la scelta di non affidarsi ad un'agenzia perché questa permette di risparmiare sulla provvigione, che poi a questa va riconosciuta una commissione che ammonta fra il 3 e il 6%, secondo quello che ci raccontano anche i nostri ascoltatori, se non di più rispetto al valore dell'immobile trattato. Certo però che non ci si può improvvisare in un territorio delicato come questo, motivo per cui tanti italiani per le compravendite più importanti si affidano alla mediazione. Oggi andremo a scoprire se e come anche questo ambito ha sentito l'influenza della crisi che ha coinvolto negli ultimi anni complessivamente tutto il mercato immobiliare, ma andremo anche a vedere quali sono gli aspetti di cui tener conto per seguire con consapevolezza la propria compravendita e assicurarci un rapporto trasparente con il mediatore immobiliare prescelto. Allora, 800 24 00 24, chiamateci, al numero verde per raccontarci la vostra esperienza con l'agente immobiliare. È stata un'esperienza di successo, serena, tranquilla, oppure avete avuto anche qualche grattacapo? Perché la categoria sa benissimo anche che qualche volta queste situazioni problematiche capitano. Noi di tutto questo stamattina discuteremo con Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro arriva da Carpi, mi diceva, stamattina, sì, ed è a Milano per un convegno sull'housing sociale, poi magari avremo modo anche di sviluppare un minutino una riflessione anche su questo argomento che è molto importante. Poi saluto e ringrazio di essere con noi collegato telefonicamente Giuseppe Campisciano, vicepresidente invece di FIMA a Milano, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. Buongiorno Campisciano, anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ho dato il numero verde per intervenire, gli ascoltatori conoscono benissimo le modalità di interazione con noi, le altre sono 349-238-6666 se volete inviarci dei messaggi, oppure scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Avete già sentito nel giornale radio oggi come sta marciando la borsa, marcia piuttosto bene, contrariamente a come era partita, perché stamattina i listini del vecchio continente avevano avuto questa reazione negativa alle notizie che sono arrivate ieri sera e stamattina. Ieri sera la dimissione appunto del governo portoghese, perché il Parlamento ha bocciato il piano di austerity per la rimessa in sesto dei conti e di conseguenza crisi politica, e poi stamattina Moody's che ha bocciato il giudizio di 30 banche spagnole dopo aver già ridotto il rating sul debito sovrano appunto del paese. Però a quanto pare il mercato già queste notizie se le aspettava, quindi dopo una reazione un po' incerta adesso sono tutte più che positive. Parigi più 0,53, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,8, leggermente positiva anche la piazza spagnola che stamattina perdeva oltre un punto, Milano più 0,53% sul FTSE MIB. Bene Autogrill che ha rivisto e riconfermato tutti i contratti americani con Starbucks, Autogrill più 2,77%, dopo i conti di ieri Unicredit più 2,51%, STM più 2,22%, Lottomatica più 1,70%, invece la prospettiva di un aumento di capitale da 600 milioni di euro per la Banca Popolare di Milano penalizza il titolo per 4 punti percentuali, Mediaset perde l'1,44% e ancora di nuovo in calo forte Fondiaria che perde l'1,33%. Euro su dollaro a 1,41%. E 20, lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo delle agenzie immobiliari. La ricerca della casa dei propri sogni richiede tempo e impegno, e il discorso non cambia quando si prende la decisione di vendere la propria abitazione. Per affrontare questi passaggi c'è chi si avventura in un metodo fai da te, affrontando percorsi non sempre immediati e privi di insidie,

No, faccio un po' di fatica perché tra l'altro Paolo ha anche il... comunque abbiamo capito benissimo come la pensa. Non la pensa così Giovanni della provincia di Cuneo, che però sento a questo punto dopo i suggerimenti perché è in viaggio. Un'altra testimonianza, quella di Giovanni della provincia di Cuneo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Niente, io volevo portare la mia esperienza positiva per quanto riguarda l'acquisto di un appartamento. Sì. In Monza Brianza l'anno scorso, nel 2010. E abitando in provincia di Cuneo non mi era facile tanto spostarmi sovente. E infatti diciamo che qualche volta anche l'intermediazione serve, anche soprattutto in casi come questo, non perché ci serve l'agenzia magari sotto casa. Certo. Però proprio l'ubicazione, l'appartamento, a me, cioè a noi non interessava il posto, interessava l'appartamento con determinate caratteristiche, in un posto carino, con una distanza relativamente breve dal posto di lavoro. Io abito in provincia di Cuneo, ovvero nelle Langhe, in posto bellissimo, abitiamo su una collina. E quindi già che devo andare in Brianza, insomma, quantomeno una casa decente, dice lei. Esatto. E pertanto cosa ho fatto? Ho fatto un'approfondita panoramica su tutte le agenzie possibili e immaginabili del territorio. Alcune ne ho viste di tutti i colori, ma veramente di tutti i colori. Poi selezionando ho trovato l'agenzia e l'appartamento che ci andava bene. E fin dai primi contatti, fin dal primo momento, fino alla stipula del rogito, ho avuto un'assistenza, una preparazione approfondita e una cortesia, oltre che educazione e tutto, di cui sono rimasto contento. Ottimo. E quindi, se dovessi di nuovo rifare un qualche acquisto, lo si rivolgerà con il professor Giovanni, senta, che provvigione le ha chiesto questo agente immobiliare? Dunque, la provvigione che mi aveva chiesto inizialmente era il 3. E poi siete arrivati ad una negoziazione, le ha fatto un po' di sconto? Esatto, mi ha fatto un 2,5%. Vi siete trovati bene da entrambe le parti, per cui si è potuti arrivare anche a questo. Certo che dal 2,5% Righi al 6%, che ci stanno segnalando molti ascoltatori, c'è una forchetta molto ampia. Ma esiste una percentuale di mercato oppure la si può anche negoziare? No, la percentuale di mercato non c'è, perché l'antitrust ha vietato le tariffe per gli agenti immobiliari già da 10 anni. Ci sono delle agenzie che hanno dei costi fissi, quindi la trattativa non può scendere sotto determinate attività, però è buon uso, prima di dare un incarico, mettersi d'accordo su quello che sarà il compenso provvisionale, in base all'attività poi che l'agente immobiliare farà e a tutto quello, perché pensate solo al costo della pubblicità che si prende in carico l'agente immobiliare, alle ispezioni che fa il catasto, le ispezioni che fa per le ipotecarie catastali, cioè c'è tutta un'attività che ha dei costi. Il 6% mi lascia un po' dubbioso, molto probabilmente è un 6% totale, il 3%. Ciò non toglie che un agente immobiliare incaricato di un'operazione particolare, per cui debba mettere in opera, diciamo, tutta una serie di investimenti al fine della vendita, possa concordare col proprio venditore o compratore un 6%. Ma certo, bisognerebbe se conoscere particolarmente magari problematica, se c'è un immobile di un determinato tipo di valore, di caratteristiche. Giuseppe Campisciano invece mi spiega bene come deve essere assegnato il mandato di compravendita, se è sempre in esclusiva e per quale motivo un cliente non può chiedere a due agenzie di intermediare la propria abitazione da mettere in vendita. Allora, intanto vorrei fare un'ulteriore precisazione su quanto riguarda l'entità provvisionale, perché proprio in queste settimane presso la Camera di Commercio di Milano sono stati rivisti gli usi inerenti all'attività di intermediazione e nel modo specifico inerenti al pagamento e alle percentuali pagate da compratori e venditori. Quindi c'è un riferimento istituzionale, che è quello della Camera di Commercio, che determina per scaglioni di valore quanto sono le provvigioni minime e massime normalmente chieste sul mercato. Quindi questo è un'informazione. Quelle che, per quelle che sono chieste, esatto, quindi è una sorta di monitoraggio, non un obbligo a chiedere quello. Diciamo che si fotografa la situazione di mercato. Okay. Sul mercato di Milano negli ultimi 5 anni la situazione provvigionale è stata questa. Quindi e ogni 5 anni viene fatta questa revisione proprio dalla Camera di Commercio. Naturalmente dissento su quello che dice Paolo e sono contento di quanto invece ha detto Giovanni, anche perché sono un operatore brianzolo. Ah, no, non Paolo Righi, il presidente della FIAC, l'ascoltatore. Paolo. Infatti si era spaventato, dice: ma che ho detto? Assolutamente. Sì. Mentre per quanto riguarda l'incarico, allora l'incarico si cerca e si chiede generalmente che venga dato in esclusiva, ma questo per una tranquillità operativa. perché quando si opera in più persone su uno stesso immobile si rischia veramente solo di fare confusione. Quindi non, il cliente non deve vedere la richiesta di avere un incarico in esclusiva come una garanzia del pagamento della provvigione, ma come una tranquillità per l'operatore di lavorare, investire, spendere, fare tutte quelle verifiche che devono essere fatte e sono sempre di più e ogni giorno di più, proprio per garantire la tranquillità dell'affare. Il Sole 24 Ore, Immobile Diritto, mi aveva chiesto di fare un vademecum per l'acquisto sicuro, e in quel vademecum è proprio indicato che cosa devono fare cliente, quindi venditore, mediatore e acquirente per poter ottenere una transazione sicura. Direi che Giovanni ha dato e ha detto la parola magica quando ha detto: ma io ho fatto una ricerca e una selezione dell'agente immobiliare, degli agenti immobiliari, e alla fine mi sono affidato a quello che... Ecco, questa è, nessuno vi obbliga ad andare dall'agente immobiliare sotto casa. No, è che magari, sa che cosa? È che magari molto spesso ci si innamora della casa che si vede ovviamente in vetrina. Qui ci riferiamo soprattutto ovviamente alle agenzie immobiliari che operano secondo questo criterio. Certo. E quindi, volendo quella casa, dobbiamo negoziare necessariamente con quell'agenzia immobiliare che la sta intermediando. Nel caso di Giovanni aveva, come dire, delle esigenze un po' più ampie, più larghe. Lui non aveva in mente esclusivamente esattamente un appartamento, un immobile, ma quindi ha potuto cercare. Ecco. Però il tema è sempre quello: quando dobbiamo comprare un telefonino, facciamo sempre questo esempio noi giornalisti, andiamo a cercarlo in 200 negozi, poi magari, ecco, per la casa invece tendiamo ad essere più frettolosi, ad affidarci anche un po' di più, Campisciano. Ma guardi, il problema è questo, quello che lei ha detto è assolutamente vero, ma è vero per l'acquirente. Cioè l'acquirente, se vuole quell'immobile, si deve rivolgere a quell'agente che ha in quel momento l'incarico, e quindi diciamo che deve un po' subire la persona che trova. Ma a monte c'è un venditore, il venditore invece può scegliere, e quindi il venditore si può affidare a uno o all'altro, ed è, e sta a lui cercare di affidarsi al migliore o a quello più preparato. Sì. Di conseguenza anche l'acquirente beneficerebbe di questa scelta. Ho tantissime domande, purtroppo non riesco a fare. C'è questa che mi interessava, di Dennis de Padova, che dice: ho acquistato casa da una società immobiliare, l'agente che ha mediato è il figlio del titolare della stessa società immobiliare, è regolare l'operato del mediatore, Paolo Righi? Sì. C'è un conflittino di interessi qua. Se l'agente immobiliare non è socio del padre, non è in conflitto di interessi. Fanno naturalmente lavori diversi, però. Fanno lavori diversi. Naturalmente, in questo caso il venditore ha fatto già di suo la ricerca, dando al figlio il mandato per la vendita. Allora, Carlo da Livorno, ce la fa in 10 secondi a raccontarci la sua storia? Carlo? Sì. Pronto? Al volo, sì. Sì, sì. Niente, io so. A proposito di acquisto sicuro, mia figlia ha comprato un appartamento tramite un'agenzia e poi, dopo il logico, sono venuti fuori dei difetti, vizi occulti praticamente, il tetto da riparare, fatto un conto soffitto, c'era il tetto da riparare, per sapere che si può tirare in ballo anche il venditore e riversi soltanto sull'agenzia, insomma, perché questa compravendita non è stata fatta in maniera estremamente chiara. Paolo Righi. L'articolo 1759 del Codice Civile dice che l'agente immobiliare deve mettere a conoscenza le parti, le circostanze a lui note o conoscibili con la media diligenza. Naturalmente, se c'è un tubo rotto o se vi è un controsoffitto che crolla dopo un anno, non è possibile accertarsene. Diciamo che però la compravendita oggi in Italia è assolutamente garantita dagli agenti immobiliari e dal notario. Magari, quindi. Carlo, adesso non riusciamo bene ad approfondire la sua circostanza, se ce la vuole scrivere sono sicura che, appunto, girando una mail, i nostri ospiti di questa mattina ci aiuteranno a capire se ha dei margini per potersi rivalere, però non lo so a questo punto, a rogito fatto. Bisogna anche dire che l'agente immobiliare comunque è tenuto ad avere un'assicurazione contro la responsabilità civile, quindi anche i consumatori sono tutelati nel caso l'agente immobiliare ci fosse un danno all'obbligatorietà dell'assicurazione. Bisognerebbe anche valutare effettivamente poi l'entità del danno riscontrato. Allora, è sempre attivo il nostro servizio di segreteria telefonica in collaborazione con Assogestioni e il Salone del Risparmio. Chiamando il numero 828 12 12 potete rivolgere le vostre domande in tema di risparmio gestito. Qual è quella domanda che avreste sempre voluto fare al vostro consulente finanziario e che non avete mai avuto il coraggio di fargli? Lasciateci la vostra domanda nella nostra segreteria e noi vi stiamo rispondendo in questi giorni. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Sì,